finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, sei solo chiacchiere Eccoci, eccolo là. Speriamo che tutto vada bene, che siamo in onda. Da paura, anche senza rete di sicurezza, senza corde e moschettoni. Si parte pronti via, ormai tardissimo, 23 e boh, insomma, non sappiamo, vero? Però ci tenevamo a esserci comunque, a dire che Radio Onda Rossa non chiude mica il mercoledì sera. Ancora da remoto, sì, perché si spegne di qua, si accende di là, anzi era già spento, acceso in contemporanea. E il salto temporale che occorre fra il di qua e di là è veramente il giro di tre passi. Note misteriose che avrete difficoltà di intendere, ma chissà, capisce? Allora, ci tenevamo a esserci a Radio Onda Rossa, perché ci teniamo a Radio Onda Rossa come ci tenete tutti e tutte voi. Vi ricordiamo che è importante sostenere questa radio, come fate dal lontano 1977. Un contributo di sostegno alla radio che avviene in una miriade di modi, da chi partecipa alle iniziative a chi vi è addirittura promotore o comunque è artista e propone per la radio. Ultimamente, con la vicenda delle pandemie in giro, ci è sempre stato più difficile fare iniziative che anche negli anni passati, però dato che ormai diciamo le serate soprattutto estive sono un po' sature di storie divertenti, è difficile diciamo riuscire a sovvenzionare la radio solamente attraverso i concerti, le feste, gli spettacoli teatrali e via dicendo. Perciò abbiamo lanciato la campagna di radioabbonamento della radio, che significa mille di voi che versano 30 euro, che significa 30.000 euro per Radio Onda Rossa. Avete partecipato in molti e in molte, non è ancora abbastanza, vi chiediamo perciò di sottoscrivere sia appunto attraverso lo strumento del radioabbonamento, trovate sul banner in cima alla webpage della radio www.ondarossa.info, trovate tutte le indicazioni in merito. Diversamente vale il vecchio conto corrente postale 6180401 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Abbiamo detto anche l'indirizzo della radio. Negli orari diurni ci trovate sempre qualcuno o qualcuna, forse un po' di meno in questa stagione, comunque al primo piano di via dei Volsci 56 veniteci a suonare, a bussare, e portate la fatidica valigetta 24 ore piena di dollari. Allora, puntata in cui parleremo poco, poiché avremo da riproporvi una piccola antologia di Trip Virus, la vicenda che abbiamo iniziato questa primavera praticamente con il coronavirus, con la reclusione coatta imposta dal regime di isolamento. Ci siamo messi all'opera quindi sui vari computer, approfittando anche del tempo che eravamo finalmente riusciti a rubare ai ritmi del confine e della produzione, e quindi del consumo e della produzione. E quindi 06491750, il recapito telefonico di Radio Onda Rossa, 25oclock@ondarossa.info per il sottoscritto, ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla radio. Allora, dicevamo, l'idea era molto semplice. Trovandosi relegati in casa, senza poter avere la possibilità di contatti materiali, riducendo le uscite da casa a pochi minuti per i bisogni necessari ed essenziali, avendo riconquistato tutto parte del tempo che ci viene sottratto, come diciamo sempre da queste parti, ai ritmi del consumo e della produzione, ma non avendo perciò la possibilità di esprimere la nostra energia in maniera compiuta ed esaustiva, insomma, ci inventavamo o perlomeno mettevamo in pratica con il fantasma che prima di tutti ci si è dedicato, un'idea vecchia che era quella di costruire dei mix che non fossero soltanto una selezione musicale, ma che fossero un mosaico più complesso, fatto di varie suggestioni, insomma, che potesse un po' a livello sonoro ricostruire quelli che sono le nostre preferenze, diciamo, dal punto di vista cinematografico, dal punto di vista della semplice pubblicazione sui media, dei nuovi media, sul tubo, insomma, in tutti quei luoghi dove è possibile si trasmette oggi emozione e comunicazione, lo abbiamo fatto andando a pescare nella maniera più così a casaccio, quasi seguendo semplicemente così un filo molto intricato, molto disordinato, molto spettinato del discorso. Fantasma quindi produceva il secondo volume del Trip Virus. Attendiamo ovviamente da parte sua nuove uscite che ci ha promesso. Già dalla prossima settimana potremmo inventarci qualcosa, così anche per chiudere la stagione. E mentre ci ha tenuto compagnia la il folk metal scandinavo svedese dei Vintersborg, con Cosmosaic e Idemplet, noi ci andiamo ad ascoltare quasi 30 minuti del Trip Virus volume 2, uscito dai, se vuoi sentire, che vi abbiamo fatto ascoltare per la prima volta il 1 aprile o giù di lì. La produzione del file del 1 aprile, adesso non abbiamo il calendario sotto mano per capire quale era il mercoledì in cui l'abbiamo mandato. Vabbè, a risentirci fra una mezz'oretta, mettetevi comodi perché questo è un viaggio vero e proprio, un trip vivo. Means and services. Base 104. Decollo di Orion 8 normale. Conteggio alla rovescia. Meno 180, meno 150. Proibito l'atterraggio per Venus 12 e Eridanus 8. Sgombrare la base, prego. Orion 8 dopo atterraggio, direzione EAS1. Jupiter 1, Hyperion 29. 7 6 5 4 3 2 1 0. Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la nostra vicinanza ai poliziotti, ai soldati che sulle strade cercano di mantenere sempre l'ordine. Il pensiero che Dio voglia punire questa umanità così cattiva e che quindi sia Dio che ha mandato la coronavirus e che veramente ci meriteremmo anche molto di peggio di questo. Io so, come tutti voi, che c'è tanta sofferenza nel mondo. Ci sono tanti tanti bambini che soffrono, la fame. È vero. Tanti nel mondo, ma anch'io so che cosa vuol dire avere la fame, patire la fame, perché domenica scorsa erano le 2:30 e avevo fame e tutti i ristoranti erano pieni e non avevo prenotato e avevo fame. Sono degli emarginati, dei poveri malati che cercano di appestare tutti quelli che li circondano. Provate ad ascoltare la loro musica, è infetta. Reverendo, mi consenta una domanda. Questo album, Fallo come i cani, dovrebbe parlare del comportamento animale, no? Voglio farle un esempio. Una delle canzoni che ascolterete. Benissimo. Mi dica francamente cosa significa. La legga. Il mio missile d'acciaio spingerò nel tuo tunnel dell'amore. Se spingo, sempre più, diavoli e angeli senti giù. Sentimi. Allora, che cosa gliene sembra? Per me non si riferisce ad altro che ad un atto sessuale. Stiamo svolgendo dei servizi di controllo anche con i droni dell'arma dei carabinieri per controllare dall'alto le persone e successivamente individuarle con le pattuglie che sono a terra. Presto avrebbe scoperto che nel futuro la giustizia non era solo cieca, era diventata anche ritardata. Esercitazioni della Legione Allievi Carabinieri di Roma, allo scopo di potenziare le virtù guerriere negli allievi, nei carabinieri e nei sottufficiali, temprandoli alla vita del campo, educandoli alla scuola dell'ardimento e addestrandoli all'uso efficace delle armi e dei nuovi mezzi d'offesa e di difesa. Sicuramente questo dà l'immagine quanto importante è il dispositivo che in questo momento è in atto, operativo oramai dall'11 di marzo. Sono state controllate 4.071 persone. Parliamo dei controlli effettuati da Polizia di Stato, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza in modo particolare. Sono state applicate 340 sanzioni penali, cioè meglio ancora 340 persone sono state denunciate penalmente per violazione dell'articolo 650, che per mancata ottemperanza all'ordine dell'autorità, perché si sono spostate o mosse per motivi futili, se diversi da quelle situazioni necessitate che sono previste attualmente dal nostro ordinamento, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Vivi a modo tuo, sentiti libero di fare quello che più ti piace. A casa tua puoi essere come vuoi. And with no remission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your Diciamo, se è vero che è uno tsunami e se è vero che il pericolo che corriamo è un pericolo molto forte, è una guerra. Io in questo peso bene le parole, mi rendo conto di quello che dico. E adesso ascolta, Dio è nero, Dio è nero. Lo sanno tutti che Dio è bianco. Hai accettato quello che ti ha insegnato l'uomo bianco. Ti ha insegnato che eri un selvaggio nero e tu gli hai creduto. Ti ha insegnato ad adorare un Gesù biondo con gli occhi azzurri e la pelle bianca e tu gli hai creduto. Ti ha insegnato che il nero era la dannazione e tu gli hai creduto. Hai mai controllato la parola nero sul dizionario? No. Hai mai pensato che tutto ciò che ti hanno detto è solo un inganno? E perché è un inganno? Vieni con me. Nero. Privo di luce, privo di colore, avvolto nell'oscurità, oppure estremamente fosco o tetro, il futuro appariva nero. Te la cavi bene con le parole. Sudicio e sporco, immondo, cupo, nemico, ripugnante, una giornata nera. Crudelmente o orribilmente malvagio, demoniaco. Il genere indica disgrazia, disonore o colpevolezza. Non finisce qui. Ricatto, parere negativo, mascalzone. Sì, davvero incredibile. E ora guardiamo bianco. Ecco. Leggi. Bianco. Il colore della neve immacolata. Contiene tutti i colori della luce. L'opposto del nero. Esente da macchie o imperfezioni. Innocente. Puro. Incredibile. Privo di intenzioni malvagie. Innocuo. Onesto. Leale. Da rispettare. E un momento. Questo è stato scritto da gente bianca, però. Insomma, è dei bianchi. Non è certamente un libro dei neri. E allora perché lo leggiamo? Perché la verità sta là dentro, se leggi dietro le parole. Devi prendere tutto quello che dice l'uomo bianco e usarlo contro di lui. Ah sì? Ok, ma spiegati meglio. Insomma, ci sono un mucchio di parole qui dentro. Ecco, cominceremo dall'inizio. Le esamineremo tutte, le ricopieremo e scopriremo cosa significano. Ecco, pagina 1, la prima parola. Aardvark. Aardvark, o oritteropo, mammifero africano, mangiatore di formiche. Abaco, antico strumento di calcolo. Abaddon, l'angelo dell'abisso, il distruttore, il pozzo senza fondo. Sì.

No, finalmente un personaggio in cui mi riconosco. Scommetto che gli capitano cose belle. Ma tesoro, con tutti i problemi che ci sono in Medio Oriente e nel mondo, l'assunzione è prossima. L'assunzione? Vacci piano, Helen. Alcuni studi dimostrano che la religione è solo superstizione. L'unica cosa per la quale prego è che tu vada a letto con le nostre carte di credito. Oh, signor Thompson, che succede se sua moglie ci scopre? Sono tempi moderni, lo fanno tutti ormai. Dov'è finito il mio autista cristiano? Il mio mio marito è sparito! Il bimbo che ho fatto battezzare è sparito! Signor Thompson, ma che sta succedendo? È l'assunzione, Sean, l'assunzione! I virtuosi sono saliti in alto e tutti noi siamo rimasti in basso. Oh, rimasti in basso? Ma dove l'ho sentita già questa cosa? È il titolo del film. Oh, è dappertutto! Siamo stati sciocchi e siccome abbiamo respinto Dio tacitamente accettando Satana, soffriremo patendo l'apocalisse. Credevo che tutte le religioni conducessero a Dio. Mi sbagliavo! Perché ho posto la mia fede nella scienza e nella tecnologia? Ma perché ho scelto di farmi il mazzo? Salve amici, non sapevo di trovare anche voi qui. Benvenuti a bordo. Paese è pronto per le nuove. Dovreste togliervi questi stracci di dosso, non siete più dei derelitti adesso. Abbiamo bisogno di collaborazione. Loro sì che sanno come si fa girare la ruota. Conoscete già la nostra sede? Dobbiamo restare forti. Non ne ho ancora avuto occasione. Allora ti farò da guida. Bisognerà lottare ancora contro le manipolazioni e lavorare. Sapevo che ti saresti schierato dalla nostra parte. Siamo il simbolo del capitalismo. Siete quello della saggezza, onestà e solidarietà. Cameriere? Grazie. Scusami, dove diavolo siamo? All'interno del mondo, ragazzi. Non si potrebbe accedere perché è da qui che gli osservatori dirigono i propri sensori elettronici sul mondo della società umana. Per entrare ci serviamo di piccoli orologi monitor su cui appare ciò che succede all'interno di questa potenziale nuova razza. Hanno una tecnologia al di là della nostra immaginazione. Hanno adattato la loro biologia cellulare, assumendo in tutto le nostre sembianze. Hanno trasformato in spazio vitale per loro la crosta del pianeta. Le loro astronavi non subiscono il potere gravitazionale. Né occhio, né interferometro, né telescopio le vede partire. Potete credermi, amici. Capisci come funziona? Sì, dottore, è un semplice disintegratore. Perfetto. Ora girati in qua. Puntalo sul comandante. Mira esattamente fra gli occhi. Fuoco. È innocuo. Nel suo subcosciente elettronico il mio ordine e la sua inibizione a nuocere sono due forze uguali e contrarie. Annullato. Se io lo avessi lasciato continuare, tutti i circuiti sarebbero bruciati. Paura della paura. La paura, questo sentimento che accompagna l'uomo sicuramente sin dagli inizi del suo percorso su questo pianeta, un sentimento che ci blocca, ci limita molto spesso, che ha due estremi: da una parte l'immobilità, rimaniamo fermi, impietriti, dall'altra il panico, quindi disturbi d'ansia, gli attacchi di panico, l'incapacità di poter vivere in pieno il nostro quotidiano. capacità di poter vivere in pieno il nostro quotidiano. Uno scrittore americano di nome Lovecraft alcuni anni fa scrisse: la più antica, la più forte emozione che l'uomo possa provare è la paura, e la forma più suggestiva e violenta di questa paura è la paura dell'ignoto. Sapete dirmi come si cresce, oppure è incomunicabile, come la melodia e la magia. Ma quanto mistero nella serena inquietudine dei corpi e quanta umana ironia nella calma luce degli occhi. Non sono più gli istinti elementari che ci interessano, ma le leggi profonde che governano i processi della vita. Fanciullo non gioca perché è troppo pigro per lavorare. Spesso, anzi, egli mette in opera nel gioco le più strenue energie. Vi si concentra con tutto il suo essere e ne trae soddisfazioni emozionali che non può attingere da nessuna altra forma di attività. Da una tensione così viva e disinteressata dell'animo ne viene una felicità sospesa, fatta di niente, che non si ripete mai più nelle altre età dell'uomo a venire. Non sempre il gioco dei fanciulli si materializza in un concreto obiettivo. A volte esso consiste semplicemente in una perfetta meditazione. L'assenza si fa totale e la mente e il corpo si impegnano in una solitaria ricerca di simboli e di sensazioni. Durante tutta la fanciullezza, il giocattolo più affascinante è e rimane il proprio corpo, veicolo immediato della realtà, la quale appare ancora affabile ed amica, fatta per essere esplorata e goduta. I suoni, l'acqua, i colori, il vento costituiscono gli elementi di una meravigliosa avventura, nel piacevole gioco dei sensi, incantevoli ricordi che riaffioreranno intatti nell'uomo adulto, quando la realtà avrà perduto i suoi dolci sapori. Sapete dirmi come si cresce? Oppure è incomunicabile, come la melodia e la magia? Ammazza, Iago, ti credevo così buono, così bravo, così generoso, un pezzo di pane, invece, quanto sei cattivo. Ma perché? Comunque mi giudico da me, pure io faccio schifo, mica solo te. Ma perché dovremmo essere così diversi come se credevo? Perché? Figlio mio, noi siamo in un sogno dentro un sogno. Questo è lo sconvolgimento di ogni legge di natura. Cos'è il viaggio nel tempo, se non un patetico tentativo di controllare il mondo che ti circonda? Il tuo sforzo inutile per ottenere una risposta a lungo cercata. sofferenza fino a quando non cambia tutto. Può essere un processo così lento che non ti accorgi che la tua vita è meglio o peggio finché non è diversa. Oppure il cambiamento può essere radicale e tutto è diverso in un attimo. with eyes like glass whose youthful days were gone and past. He told me in a cardboard tone how long ago he once had flown. When I was young he did relate. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Into the clouds and then beyond. What kind of bird am I? How can I learn to fly? And so 2 minuti dopo la mezzanotte in questo momento e abbiamo riascoltato insieme a tutte voi la produzione a volte cupa ed angosciante, a volte più aperta e solare per quanto riguarda il Trip Virus volume 2 del Fantasma, prodotto, proposto all'inizio di aprile di quest'anno durante il lockdown. Ormai quasi ci si è dimenticati di quella faccenda, si è passati alla fase successiva, alla fase successiva ancora, ecco. Nel 45 su Hiroshima e Nagasaki furono fatte esplodere 2 bombe atomiche. Non è che si avesse la totale consapevolezza all'epoca di quello che si stava facendo, c'era una guerra, c'era un contesto. Le decisioni prese furono decisioni politiche. La lettura storica a posteriori ci dice che insomma la guerra doveva finire e bisognava iniziare un'altra fase. Ovviamente quei bombardamenti atomici seguirono altri bombardamenti anch'essi. Come si dice, seminali sul territorio tedesco. Il bombardamento al fosforo su Dresda, insomma, se ne sperimentarono molte di armi per passare alla fase successiva. Non è importante il contesto in cui queste operazioni vengono portate a termine, vengono completate, ma è importante quel che succede dopo nella storia. Perché si passa a una fase successiva. E credo che noi abbiamo partecipato, non dico che siamo stati vittime, ma abbiamo partecipato a un esperimento sociale collettivo e ancora ci stiamo partecipando. Al di là che questo sia fatto bene o male, sia fatto a fin di bene o con scopi più politici, fatto sta che si entra in una fase successiva e il disorientamento, l'angoscia, l'incapacità di dire è proprio di quel periodo, o di qualche settimana, di qualche mese fa. I've never flown against a sea because we're all alike, you see, our sickness. Ed è un disorientamento che suggeriva il cambio di riferimenti, l'esperimento sociale collettivo di massa, tutt'oggi in corso in molte parti del mondo. Tant'è vero che è stato seminale, insomma, mai c'era stata una tanto dispiegata messa in atto degli strumenti di comunicazione di massa. Mai un'idea era stata così fatta accettare, dicevamo, nel bene o nel male, tanto in fretta, tanto velocemente. Enter the Aggies, Sky Swimmer dal Canada, 1999. No, invece no, sì, 1990. Sì, perché è del 2011, invece è questa. Blood on the Black Robe, di nuovo Crouchan da Dublino. Crouchan. Settimane più tardi, il 13 di maggio, invece, un'altra puntata di 25 O'Clock e un'altra produzione invece di Trip Virus. Non basta più numerarli. Bisogna agire un po' di più sulle parole, bisogna creare dei titoli, bisogna descrivere meglio in che tempi, in che situazione emozionale ci troviamo. L'esperimento sociale prevede chiamiamo così, ovviamente, esperimento sociale, ma non di detto che abbia dovuto essere preterintenzionale. Oh, è quello di edificare una verità nel caos, appunto dei pensieri e della collocazione che si registra in quei giorni per larghe, larghissime parti della popolazione, anche a un livello diciamo non prettamente classista, anche se qui nella lettura di quei giorni si può capire appunto quanto la dimensione di classe in quel momento fosse assolutamente dirimente. Chi lavorava, chi non lavorava, chi era costretto, chi pensava solamente ai soldi che perdeva e chi magari da qualche altra parte i soldi invece li contava, inaspettatamente o meno. Fatto sta che si cominciano a delineare quelle che sono le teorie del complotto, che ci sono sempre state, ma insomma i complottisti si raggruppano, ordinano le idee, cercano di far diventare un pensiero coerente. Ovviamente il mondo della storia è qualcosa di molto più complesso di un semplice complotto. E noi da una parte affascinati come sempre dai complotti e dall'altra parte assolutamente scettici, decidiamo di fare il complotto trip virus in cui dentro ci sta anche Psy Complotto Trip Virus, che avete ascoltato tante e tante volte. ...43 minuti e 53 secondi, quindi Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. Facciamo di nuovo un salto indietro di qualche mese, questo è Complotto Trip Virus. Non sono particolarmente diversi da noi, quanto forme di energia che fanno parte dell'universo. Loro hanno quelli che si sono venuti a limitare, hanno delle capacità tecnologiche infinitamente superiori alle nostre. Quali accordi avrebbero potuto fare questi alieni? Nessun accordo, semplicemente noi che siamo il frutto di una ibridazione tra i primati e il DNA alieno. Sono arrivati su questo pianeta, la Terra, e hanno ibridato il DNA dei primati con il nostro. Dopodiché hanno fatto sì che nascesse come, cioè di genere umano. La teoria evolutiva secondo la quale l'uomo si è sviluppato nel giro di milioni di anni e sempre più stato accantonato. Perché? Perché nel DNA umano ci sono dei rami che sono stati mutati e questo si può fare esclusivamente in un laboratorio. I rami mutati del DNA hanno permesso agli alieni di crearci perché hanno mutato quei geni tipici di primati in modo da eliminare alcune caratteristiche che renderebbero difficile l'ibridazione del DNA alieno con quello dei primati, per far sì che noi fossimo organismi senzienti dotati di un ragionamento molto particolare. Questo probabilmente lo abbiamo ereditato dagli alieni. Sono organismi, creature che non ragionano e

sappiamo che ce l'avete fatta a seguirci fino praticamente all'una di notte. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza 25 o'clock, controlla. Male. Bene o male, controlla. Ma non controlla certo nessuno e nessuna di voi. La vostra libertà non ve la può togliere nessuno. Continuate a usare la zucca. Noi a maggio di quest'anno avevamo così giocato. Eravamo andati a pescare un oscurissimo personaggio su un canale YouTube che racconta storie di fantascienza, con l'inquietante voce di Francesco Cossiga camuffata. Un grande, lo ringraziamo. Abbiamo dovuto lavorare tantissimo sul suo audio, però infine insomma è uscito il complotto di Pavirus. Allora, noi ce ne stiamo andando. Vediamo se riusciremo a lavorare un po' su un prossimo magari finale Trip Virus per la stagione radiofonica. Ci aggiorniamo quindi per mercoledì prossimo. Speriamo di essere nel luogo deputato in radio. Vi ricordiamo che Radio Onda Rossa vive libera grazie a voi tutti e voi tutte, perché la sostenete anche economicamente, quindi datevi da fare, andate sul sito della radio www.ondarossa.info, c'è il banner là sopra. Dove c'è scritto sostieni Ror. E fate quello che c'è scritto, come volete, quando volete, il prima possibile. Questo è il treno. Enter the Aggies. Finire con Apocalittica, quindi dopo aver ascoltato The Unforgiven, ovviamente una cover fatta con quattro violoncelli, con un quartetto d'archi. E questo è Welcome Home. Sanitarium. Che ci serve per darvi appuntamento? Innanzitutto con la radio, perché dopo di noi continuerà la compagnia automatica Sonata con le sue selezioni e le sue repliche notturne. Si riprende domani mattina. Con la lettura delle prime pagine del giornale alle 8, la rassegna stampa cittadina e i redazionali della mattina. Poi c'è tutta scena cinema, Attica Blues, la schiena del Sol, il Mezzedes, Tabula Rasa e i cuginetti d'Apostasia, se tutto verrà rispettato, non sappiamo. Data la tarda stagione estiva, chi abbia più o meno finito, comunque la radio manda le sue repliche anche in questa calda estate. Il nostro saluto più importante va a tutti e tutte coloro costretti, a condizioni costrette, a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, tutti i centri di detenzione per migranti, e un urrà per quei migranti che in questi giorni sono riusciti a sfuggire alle maglie del controllo, sempre più ferreo per cercare la loro strada. Grande caos questo mondo, ognuno ha il diritto di rivendicare la propria esistenza. È più che il diritto, è più che soltanto il diritto, anche il dovere e il piacere. Stare con gli 87.9 fissati sul vostro sintonizzatore, sul vostro apparecchio radio, non cambiate frequenza, continuate a sostenerci per tutto il lavoro che la radio sta facendo da 43 anni, ma anche in questi mesi. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai! our dreams, I'll share our dreams under a communist moon.